È una notte di luna nel vecchio Messico. Cammino solo fra silenziose haciendas. Si sente lontano un pianto d'amore di una giovane signorita messicana. Ritorna a casa, Spiri Gonzales, devi lasciare quel bar e devi smettere di bere per scordarti di me. Tu m'hai lasciato sola in casa, tu m'hai lasciato perché ho tanto freddo e sono sola, è il tetto lacrima per me. Spiri Gonzales, ritorna da me. Spiri Gonzales, non lasciarmi mai più. Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Nascondi il viso col sombrero e ti vergogni perché hai sulle labbra un altro bacio mai baciato da me. Se torni ancora tra le mie braccia, io ti perdono perché verremo insieme una tequila e brinderemo il nostro amor. Spiri Gonzales, ritorna da me. Spiri Gonzales, non lasciarmi mai più. Hey Rosita, come quick down at the cantina. They're giving grip stamps with tequila. Why don't you come home? Speedy Gonzales, Speedy Gonzales.